Tempo di sport di Gigi Garanzini. Come avete sentito, buon pomeriggio, la drammatica attualità abruzzese continua ad avere doverosamente la precedenza. I quarti di Coppa dei Campioni sono cominciati indubbiamente con una sorpresa, visto che il Porto ha inguaiato, possiamo dirlo, niente meno che il Manchester United, e il 2-2 dell'Old Trafford costringerà quindi gli inglesi in pratica a vincere la partita fuori casa. Impresa non impossibile, ma impresa a questo punto. 90 minuti molto divertenti, spettacolari, che i portoghesi hanno affrontato con il classico piglio di chi non ha nulla da perdere, no? E allora fioccano i commenti e i rimpianti di chi, ma ovviamente degli interisti. Roberto Lecco ha appena inviato una mail che dice: ho visto questa partita, da interista mi sono rammaricato e dispiaciuto più ieri sera di essere usciti che il giorno dell'eliminazione effettiva. Perché? Ma perché vedendo giocare il Porto ieri ho capito che se l'Inter avesse disputato la doppia sfida col Manchester in modo differente, cioè senza timori reverenziali, semplicemente giocando come fa in campionato, molto probabilmente ieri sera ci saremmo stati noi al loro posto. Poi domanda se questa è un'osservazione obiettiva, io penso che lo sia, soprattutto in rapporto alla partita d'andata a San Siro, in cui davvero ci fu soggezione da parte dell'Inter nei confronti degli inglesi, non tanto di quella di ritorno, in cui insomma, mi pare di ricordare che l'Inter giocò la partita che doveva giocare dal punto di vista dell'iniziativa e semplicemente non trovò il gol, anche con qualche traccia di sfortuna che aveva compensato, e forse non ancora del tutto, la fortuna avuta all'andata nel non andare sotto nel primo tempo. È acqua passata, ma insomma evidentemente non per tutti. Nell'altro quarto di finale la gemma di Adebayor, ma la gemma anche di la combinazione Fabregas-Adebayor, a chi ha i capelli grigi può aver ricordato quel lancio di Fabregas anche per una somiglianza vaga fisicamente. Rivera era più elegante, ma insomma Fabregas in parte lo ricorda. Sembrava un lancio di Rivera e una rovesciata di Prati, succedeva una quarantina d'anni fa ogni tanto, anche se forse non con questa strapotenza atletica, fisica che Adebayor ci ha messo. Tra poco i vostri commenti in diretta, i vostri messaggi e l'intervento dei colleghi del Sole 24 Ore per la messa a punto di un paio di argomenti di particolare interesse. Marco Bellinazzo è già qui al mio fianco. E a proposito di Manchester, leggo tra l'altro su un'agenzia che nessun club britannico finora ha mai vinto a Porto, complessivamente, cioè non mica il Manchester, tutti insieme. 4 sconfitte e 5 pareggi per le inglesi nei 9 precedenti sul campo del Porto. Quindi questo è un altro motivo di riflessione e di possibile, no? È un argomento a favore di una possibile eliminazione clamorosa a questo punto del Manchester United nei detentori del trofeo nei quarti di finale contro il Porto. Bentornato a Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio. Dunque, noi ieri ci siamo a lungo dilungati da un punto di vista tecnico, da un punto di vista spettacolare, di coinvolgimento emotivo, sul caso di questo ragazzo, di questo Federico Macheda, il romanino di Roma, che da un anno e mezzo sta a Manchester, anche in virtù di regolamenti e normative che vengono interpretati in maniera diversamente severa a seconda della latitudine, e su questo la UEFA da tempo cerca o minaccia di intervenire. Com'è il punto di vista strettamente regolamentare? Ma il rischio fondamentale che corrono le società italiane è tra i 15 e i 16 anni dell'atleta, cioè quando si è in quella fase in cui si avvicinano i 16 anni, e da 16 anni si possono appunto fare dei contratti di tipo professionistico, e quindi quando insomma si deve scegliere su chi investire. Il problema è regolamentare ed economico. Nei settori giovanili le squadre italiane stanno credendo sempre di più, anche per via della crisi economica, ma forse negli ultimi anni hanno creduto poco. Investono diciamo alcuni milioni di euro. Sono le cifre che squadre come il Manchester, il Chelsea, l'Arsenal investono semplicemente per un progetto. Cioè loro fanno un progetto su un giocatore, che significa coinvolgere l'intera famiglia, coinvolgere, diciamo, il giocatore, la famiglia dal punto di vista professionale. Posto di lavoro per il padre, nella fattispecie, per esempio. Significa, per esempio, garantire un alloggio dignitoso, garantire gli spostamenti. Insomma, c'è un progetto intero che riguarda non solo l'atleta, ma la famiglia, con relativo investimento economico. E questo tipo di investimento le società italiane non sono ancora pronte a farlo. Ho sentito per esempio Lotito che ha dichiarato a proposito di Macheda che ha fatto di tutto per trattenerlo. Altri casi, insomma, sono verificati a Napoli, a Bergamo, per l'Atalanta, di giovani giocatori prelevati appunto tra i 15 e i 16 anni. Però diciamo che il tentativo di trattenerli dal punto di vista economico era già perdente in partenza. Mi pare che, dato che diventa poi anche difficile e impegnativo stabilire se è giusto essere così prematuri, non saprei come dire, come fanno per esempio le società britanniche, o non è più giusto invece lasciarli crescere un po' di più nel loro habitat, eccetera. Mi pare che la proposta di una delle proposte allo studio dell'UEFA sia quella di innalzare l'età del primo contratto professionistico, e cioè studiare o mettere a punto un contratto di formazione precedente che sia più lungo e innalzare a 18 anni l'età del primo contratto possibile, o no, o è qualcosa del genere. Questo è quello che Platini vorrebbe fare, sì. Questo è quello di cui si è discusso per esempio negli ultimi vertici a Copenaghen della UEFA, è un tema centrale, perché da questo dipende anche, diciamo, il tentativo di patrimonializzare le società garantendo appunto investimenti, ma anche la protezione sui settori giovanili, perché conviene poco investire nei settori giovanili quando c'è la possibilità che le squadre più ricche, soprattutto poi dall'Inghilterra, dalla Spagna o dalla Germania, che insomma è in grande crescita da questo punto di vista, possano appunto giungere in Italia e prelevare i migliori talenti. C'è di fatto una grande ipocrisia nel mondo del calcio, perché, diciamo, il livello dell'età dei giovani calciatori che vengono prelevati dalle altre nazioni si sta sempre più abbassando. Di fatto già da 11 anni è possibile mettere tra virgolette sotto contratto un baby calciatore, garantendogli la formazione scolastica, garantendo in qualche modo una forma di inserimento alla famiglia, e mi risulta che molte società, penso alla Roma, investano molto in questo, facendo trasferire da altre città italiane, certo, dei giovani calciatori, insomma, che ritengono in qualche modo promettenti. Il problema è quando da questo livello, come dire, formativo si deve passare a un livello professionistico, certo. Che a quell'età, ti chiedo scusa, sì, che a quell'età, come giustamente sottolineavi all'inizio, non può non coinvolgere le famiglie, soprattutto in caso di trasferimento all'estero. E il problema è quello che evidentemente c'è bisogno, al di là delle regole che vanno cambiate, anche di una scelta molto precisa, cioè investire una parte maggiore del proprio bilancio nella formazione, i cosiddetti costi del vivaio, certo. Significa investire non più il 5-6% del bilancio, ma portarlo al 15-20%, come fanno molte di queste squadre, diciamo, le più blasonate. Ecco. Non sono nemmeno sicuro che questo potenziale innalzamento verso i 18 anni riscuota poi il gradimento delle famiglie, delle società sì, certamente sì, le famiglie non credo mica tanto, perché la famiglia che si vede crescere in casa un talento, la gallinetta o la gallinona dalle uova d'oro, lo vuole sfruttare il prima possibile, quindi non so se quei due anni li renderebbero C'è anche da capire quanto la famiglia, come dire, sia attenta soltanto ai profili sportivi o giustamente, insomma, anche a quelli economici. Io credo che ci sia, ecco, da fare questo tipo di discorso. Allora, è un bene che ci sia, nell'ambito di questa globalizzazione che riguarda anche il calcio, la possibilità anche per i giovani di andarsi a formare all'estero. Guardiamolo anche da questo punto di vista. Per esempio, nell'ultima finale del torneo Primavera, che ha vinto la Juve, mi è capitato, insomma, di guardare una parte della finale e ho visto, insomma, che ci sono molti giocatori stranieri anche nelle primavere, ma mi risulta che in tutte le squadre italiane, nelle giovanili delle squadre italiane, ormai siano piene di giocatori stranieri. Certo, questa è globalizzazione. Questa è globalizzazione perché dà la possibilità. Sono ragazzi che crescono qua comunque in linea di massima. C'è la formazione, la famosa formazione, diciamo, all'interno del paese che rende, certo, diciamo, il giocatore formato dalla squadra e quindi garantisce anche alla squadra una sorta di indennizzo quando viene prelevato all'estero, che per il momento è molto basso, e anche su questo sta intervenendo Platini. Cioè, il caso che stai facendo tu non è il caso di tratta dei minori, come qualcuno l'ha battezzata, forse esagerando un tantino, ma non andando lontanissimo dalla realtà, poi perché alla fine di quello si tratta, sia pure in maniera molto pacifica e anzi remunerata. Se vogliamo ti faccio un esempio di quell'ipocrisia di cui parlavo prima. Per gli extracomunitari, per i giocatori extracomunitari, si dice che possono essere, come dire, messi sotto contratto o comunque acquistati dall'estero, se diciamo possono essere messi sotto contratto essendo giocatori, pur essendo giocatori stranieri non europei, a patto che si trovino già in Italia o che la famiglia comunque sia residente in Italia, sì, per motivi, si dice, extracalcistici. Ora, considerando le difficoltà dell'immigrazione in Italia, è chiaro che, come dire, scovato un giovane talento in un paese in Africa, per esempio, si parla spesso dell'Africa, qualcuno ha parlato di squadre giovanili italiane che sembrano delle nazionali del Nigeria o del Kenya nei giorni scorsi, è chiaro che evidentemente si fa in qualche modo, si aiuta la famiglia a trasferirsi in Italia e il motivo è calcistico, non extracalcistico, di questo trasferimento, per cui anche su questo le società italiane non sono indenni da colpe, se vogliamo, se la vediamo in un'ottica di sfruttamento dei giovani. Il problema, semmai, è, favorendo la globalizzazione e guardando la globalizzazione come elemento positivo, evitare invece il fenomeno, se vogliamo, di tratta degli schiavi, usando parole forti, minori, facciamo minori, tratta di minori, con il rischio che appunto siano però sempre e soltanto le società con maggiori possibilità economiche, magari, certo, più indebitate, ecco il discorso che è tutto legato, no, alla, se vogliamo, al bilancio poi che si possono permettere certi club, che siano appunto le grandi società e quelle inglesi in particolare a prelevare in tutto il mondo i giocatori che ritengono più promettenti, e in questo modo, diciamo, il gap competitivo con le piccole società o anche con le società di altri paesi significa che resterà tale per anni, perché, certo, investire nel settore giovanile significa garantirsi poi la possibilità di evitare, insomma, esborsi particolarmente alti, eccessivi in altri, per acquistare campioni già affermati. Ci restano due minuti, poco più, due minuti e qualche secondo per un altro breve capitolo che però è di grande interesse perché riguarda un grande numero di società dilettantistiche in Italia, cioè quelle che poi davvero fanno sport, ed è il capitolo del 5 per 1000. Due minuti. Apriamo il due minuti. Spazio di formazione di servizio. Ma spazio di servizio. Le associazioni sportive dilettantistiche, sono oltre 40.000, possono accedere ai benefici del 5 per 1000, che è quello che in questi giorni, insomma, molti ci ricordano, possiamo devolvere inserendo, certo, il codice fiscale. Sono, dicevo, oltre 40.000 perché negli anni scorsi sono state ammesse e poi escluse da questi elenchi varie volte. Finalmente il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate ci dicono che anche le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al beneficio del 5.000, non solo per il 2009 ma anche per il 2008-2007, e parliamo di una cifra intorno al miliardo di euro che tutti i soggetti potranno, miliardo di euro? Sì, in questi 4 anni, mm-hmm, quindi insomma non sono soldi che si possono, a cui si può tranquillamente rinunciare. È stata prevista una procedura, chi è interessato può andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, lì ci sono tutti i moduli perché è una procedura informatica, entro il prossimo 20 aprile si potranno iscrivere. È previsto un criterio molto selettivo, che è la prevalenza dell'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica legata appunto all'avviamento e alla formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni oppure di ultra sessantenni o di persone che hanno, certo, handicap. Toccherà poi al CONI vigilare e alla fine dell'anno depennare quelle società che non rispondano esattamente a questi criteri. Fissate le regole, c'è già qualche problema, ci stanno segnalando per esempio molti che il fatto che l'associazione debba essere affiliata a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, non alle singole federazioni, possa creare molti problemi ed escludere tantissime di queste associazioni. Non so se è un criterio, diciamo, volutamente inserito o una semplice dimenticanza di chi, sì, ha scritto il decreto. Vedremo nei prossimi giorni, terremo informati, sappiamo che sono tantissimi quelli interessati. Il sito dell'Agenzia delle Entrate è www.agenziaentrate.gov.it. Sia ben chiaro che, dato che da oggi fioccheranno mail e messaggi con richieste di domande particolarmente complesse, io ti inoltrerò tutta questa posta. Mi assumo la responsabilità. L'importante è che questo sia molto chiaro. Grazie allora. Grazie Marco Bellinazzo. Con tutto rispetto per le partite di ieri sera, il clou certamente riguarda Barcellona-Bayern stasera. 20:45 a Barcellona, diretta Rai sicuro. Quello che non si capisce, perché le versioni divergono, sono, non si capisce se sia Rai 1 o Rai 2, ma insomma 20:45 il Barcellona in casa contro il Bayern e la sintesi a seguire di Liverpool-Chelsea, senza però dimenticare, cosa che tendiamo a fare tutti insieme troppo spesso, che una squadra italiana in Europa c'è ancora a rappresentare quello che resta del calcio italiano in ambito continentale, ed è l'Udinese, che è impegnata domani sera sul campo del Werder di Brema. Sentiamo la vigilia dell'Udinese, con un riferimento particolare al compagno di squadra Sanchez da parte di Quagliarella. Abbiamo beccato una delle squadre più forti che potevamo prendere, però se noi giochiamo come abbiamo dimostrato di saper giocare, come contro l'Inter che sta dominando in Italia, perciò possiamo far bene, sicuramente possiamo mettere in difficoltà. Io ci punto tantissimo su di lui, l'esperienza la può fare solo giocando, perciò bisogna dargli tempo, però come giocatore si vede, veramente forte, può darci veramente una grossa mano da qui alla fine. Già glielo ho detto, ci devi far vincere queste partite perché per noi sei fondamentale. Parlava di Sanchez, Quagliarella, a cui toccherà il compito non facile di sostituire niente meno che Di Natale. Operato Saliamidzic, leggo da un'agenzia che arriva da Torino, prognosi di 4 settimane. Marcello ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor dottor Garanzini. Dica. Vuole sapere un suo parere. Il Manchester ha giocato domenica pomeriggio contro l'Aston Villa, che è in corsa per la Champions League, quindi una partita abbastanza difficile. Poi ha giocato martedì in Champions League, appunto, a parte il risultato 2-2. Se fosse successo in Italia, ci fosse stato Inter-Fiorentina o Juve-Fiorentina, che putiferio sarebbe successo, visto che i giocatori delle squadre italiane sono sempre stanchi e così? Avrebbero fatto un'istanza parlamentare, vorrei un suo parere. Un'istanza parlamentare non credo. Credo che sarebbero stati probabilmente stanchi o un po' stralunati, come ieri sera era il Manchester. Credo che il Manchester abbia un tantinello sbagliato programmazione, avrebbe potuto farsi sentire in sede di calendari, cioè in sede in sede organizzativa, no? Perché esiste anche un preciso diritto all'anticipo, all'eventuale posticipo per esigenze europee. Nessuno gioca volentieri il giorno di Pasqua, ma la regina domenica pomeriggio si deve rassegnare a giocare contro l'Udinese il pomeriggio di Pasqua, perché l'Udinese, che gioca domani sera, quindi giovedì a Brema, ha il diritto al posticipo. E questi sono se uno non lo fa, dopo non, se uno non lo chiede, dopo non, ovviamente non può lamentarsene. Ma credo che sarebbe buona norma programmare questi appuntamenti in maniera da avere almeno 3 giorni tra una partita e l'altra, senza bisogno di interpellanze parlamentari, Marcello. Ezio, provincia di Udine, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo rispondere lei ha iniziato la trasmissione leggendo quell'email dell'interista che era rammaricato perché è uscito dopo aver visto giocare il Porto. Io domenica ero a Udine, vedi la partita dell'Udinese contro l'Inter. L'Udinese giocava un po' come il Porto, con molti triangoli corti e ripartenze veloce. E l'Inter ha giocato come gioca ultimamente, con questi lanci lunghi, cercando di sfruttare la fisicità di Ibrahimovic e Balotelli. Io, vedendo la partita ieri del Porto, ho visto che una squadra che gioca un po' come gioca Spalletti, con questi triangoli corti e veloci, può giocarsela a testa alta con tutti, anche perché i nomi del Porto non erano antisonanti come quelli del Manchester. No, certo. Poi io non so se alla fine poi Ferguson ha sbagliato un po' la formazione, perché aveva in panchina dei signori che poi alla fine gli hanno dato anche un attimino un po' di svolta, però l'Inter, per riprendermi dal discorso iniziale, se gioca sempre con questi lanci lunghi non può sempre sperare che Ibrahimovic lo butti dentro, ecco. Erano due tipi di giochi totalmente diversi, sono legittimi, perché no certo. Io credo che quella sera l'Inter avesse giocato meglio del solito, non mi pare che l'Inter quest'anno abbia esibito un calcio spettacolare o divertente, no? Anzi, questo mi sembra di poterlo escludere, salvo rare eccezioni. Però mi pare che se ha giocato una partita bene con la palla a terra e senza esagerare in lanci lunghi e cercando invece di cucire e di triangolare fu proprio quella sera a Manchester, dove fu tradita principalmente dalla mira di Ibrahimovic, direi. Ma insomma, ripeto, poi è inutile adesso ripercorrere a distanza di un mese l'andamento di una partita per l'appunto ormai così datata, ma è indubbio che la sensazione di questo ascoltatore un minimo di suggestione ce l'abbia, perché da allora comunque il Manchester praticamente non l'ha più presa ed è in crisi profonda in campionato come in Coppa. Poi è una crisi profonda perché il Manchester fosse una squadra di medio-bassa classifica starebbe facendo il suo, ma questo è il Manchester United. Andrea Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Intanto la ringrazio moltissimo di aver citato l'Udinese. Io sono mestrino, ma di fede udinese. In questi giorni si sapeva nemmeno che giocava, se non lo diceva lei. Al di là di questo, volevo intervenire. Io sono un accompagnatore di una squadra giovanile di Venezia e le dico che il fatto che molte la tendenza di andare all'estero è semplicemente perché qui, prima di poter essere valorizzati, guardi il caso Santon, solo perché lo ha messo Mourinho, se no veramente non so quando avrebbe giocato in un'altra squadra, e gli allenatori italiani, le società italiane non hanno la tendenza a rischiare, a valorizzare i propri giovani, questi vanno all'estero. Io la trovo una cosa normalissima in un mercato globale, la trovo una cosa intelligente per fare strada. Rossi. No, ma questo... lo stesso Ringhio Gattuso è andato via, altrimenti... Sì, era stato il primo, è vero. Non si sa cosa, cioè questi non li fanno giocare. Giovinco, la Juve lo ha richiamato e non sta giocando. Lo poteva lasciare a Empoli, lo poteva parcheggiare in un'altra squadra, lo facciano giocare. Su questo io sono completamente d'accordo con lei. C'è un altro aspetto però, Andrea, non metta giù che così, ma vediamo se condivide quest'altra angolazione del problema. Ed è questo, io non trovo giustissimo quello che lei dice, non trovo così giusto che una società che si alleva un talento, che si alleva un pulcino, un calciatore, lo possa perdere già a 16 anni con un primo contratto professionistico. E cioè, io me lo sono coltivato, ma sono una piccola società, ho investito molto su questo ragazzo, a 16 anni, già a 16 anni me lo portano via senza che io abbia diritto a. Io credo che se questo limite viene innalzato a 18, oppure non so, una via di mezzo, non lo so, trovo però che darebbe un maggior senso a tutto il lavoro che la società ha fatto per questo ragazzo fino ad allora. È d'accordo su questo? Io sarei con i pulcini 98, perciò hanno 11 anni, e non vengono curati a sufficienza, perché tanto l'atteggiamento è: viene qui, io parlo di Venezia, perciò viene qui il Venezia, viene qui il Padova e me li porta via. Allora io sarei per un indennizzo denaro fin dai primi calci, cioè tu giochi con me, diventi qualcuno, ci sarà ci deve essere, non solo dai 14 anni in poi, in cui allora cambia completamente l'atteggiamento alla società. Questo, dai 14 questo. Anni in poi sono allora si valorizzano, prima sono, ma guardi che vengono curati poco anche per questo. Sì, ma difatti lo credo, è tutto una ripercussione poi all'ingiù per questo, secondo me, vizio o comunque per questo concetto di fondo, e secondo me è lì che si deve intervenire per poi migliorare tutta la catena, come dire, all'indietro. Da Belluno, Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, visto che siamo tutti in terra del Triveneto, intanto faccio i complimenti all'Udinese, che se ne parla sempre poco. E poi anche perché Lorenzo ha fatto poco quest'anno l'Udinese, ha detto tra noi con la squadra che ha. Infatti, ecco. A livello di campionato non si è espressa proprio ai massimi. E poi, opinione mia personale, credo che il Porto finalmente si sia comportato da Manchester e non il contrario, e credo che abbia dato una lezione alle squadre italiane come mentalità, cioè andare a Manchester e fare il Manchester e non fare la squadra che si chiude in difesa come spesso fanno le squadre italiane. Questo... hanno attaccato fino alla fine. Sì, Lorenzo. È giusto, trovando però il Manchester in un momento di flessione oggettiva e anche abbastanza netta, e quindi avendo maggior agio poi, no, di centrare questo. Però è giusto anche tener conto del momento degli avversari. Indubbiamente l'attuale allenatore del Porto ha forse preparato la partita di Manchester meglio di un ex allenatore del Porto. Forse questo potrebbe essere. Un ascoltatore, Vittorio Veneto, Renato, molto informato, scrive che sottolinea che Ferguson ha richiesto di giocare domenica e martedì per avere i nazionali, che rientravano la settimana scorsa appunto dalle varie rappresentative, con un giorno in più di riposo. Ed è un ragionamento che Ferguson ha fatto, non so quanto felice. Sergio, tassista milanese, domanda se il Manchester è in grado di ribaltare il risultato a Porto. Io sono convinto certamente di sì e anzi credo che lo ribalterà, ma qui c'è una settimana di tempo per parlarne. C'è spazio ancora per un ascoltatore prima poi di un altro appuntamento con un amico e collega del Sole 24 Ore. È Alberto da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, il mio intervento era per sottolineare soltanto il fatto, però l'ha sottolineato negli ultimi due interventi lei, che forse il Manchester non era il Manchester che ha giocato contro l'Inter e che stava giocando bene dall'inizio stagione, diciamo. E il Porto ha trovato, diciamo, terreno fertile con il suo gioco. Però, siccome l'ha già sottolineato lei, l'altra metà del mio intervento era questa. Io ho appena finito di leggere un libro, che lei ben sa, sul Paron, e volevo ringraziarla di cuore per quante risate mi sono fatto di sera, di giorno, quando potevo andavo a leggere questo libro, perché è veramente una cosa al di là di il calcio vero è questo. Mi scusi, la ringrazio tantissimo. Il calcio vero è quello lì, la simpatia di una persona, l'arguzia di una persona, così. Io non sapevo che fosse una persona così. Io sono 63, non ho potuto vivere direttamente, ero piccolo, però una cosa del genere non immaginavo. È stato, Alberto, è stato un pezzo unico. Rocco, lei mi mette un pochino in imbarazzo con questo, insomma, me la cavo così. Giro i suoi complimenti alla memoria, al monumento di Nereo Rocco, perché quando i giovani del 63, lei è giovane perlomeno rispetto a me, certamente è giovane. Quando un giovane scopre che razza di personaggi c'erano allora, e in particolare che persona era Rocco a tutto tondo e a tutto sbalzo, io capisco che faccia un pochino di fatica ad adattarsi a oggi e che certi paragoni siano imbarazzanti. Grazie. Trovo particolarmente divertente, anzi lusinghiera, sto scherzando con l'aggettivo divertente, molto lusinghiero che a questo appuntamento calcistico si alternino dei colleghi, amici e colleghi del Sole 24 Ore, in particolare della prestigiosa sezione Norme e Tributi, che ogni tanto segnalano qualcosa di curioso che si trovano ad affrontare come argomento e che viene pubblicato sul Sole. Quindi intanto benvenuto o bentornato ad Alessandro Galimberti. Buongiorno. Buongiorno. E vorrei che ci raccontassi questa che non è una storiella, questo è un fatto vero, è un risvolto che trovo di rara curiosità ed è una chicca, prego. È un fatto vero e drammaticamente normativo, direi. te l'avevo segnalata perché secondo me è un bellissimo esempio, una spigolatura, ma è un bellissimo esempio di democrazia del lavoro verso il basso. Sì. Ci siamo incocciati in questo chiarimento del Ministero del Lavoro a un interpello che chiedeva se il libro unico del lavoro, poi spieghiamo di cosa si tratta, debba essere applicato anche ai calciatori e alle squadre di Serie A. Velocissima premessa: il libro unico del lavoro è entrato in vigore 2 mesi fa, ad aprile, il 16 febbraio, ed era sostituisce il libro paga e il libro matricola. Sì. Il motivo per cui hanno pensato di introdurre questa modifica era di semplificare la gestione, ma soprattutto la gestione da parte delle aziende, dell'amministrazione delle aziende, ma soprattutto poi di far emergere il lavoro sommerso. Quindi è stata creata questo libro, che è la carta identità del lavoratore, che lo accompagna giorno per giorno, ora per ora, nella sua carriera lavorativa, nello svolgimento delle sue prestazioni. Carta d'identità del lavoratore. C'è statuto lì, okay. C'è ogni momento della vita del lavoratore, da quando arriva al mattino, da quando timbra, che cosa fa, se è assente, se sta male, se è in ferie. Ai consulenti del lavoro è venuto in mente di chiedere al Ministero se una disciplina così formale, ma le ragioni le abbiamo capite, era per tutelare dei diritti dei lavoratori, posizioni deboli, evitare il lavoro sommerso, abusi, approssimazioni e quant'altro, è venuto in mente di chiedere se questa disciplina così formale, così rigida, dovesse essere applicata anche al dorato mondo della Serie A di calcio. Ai lavoratori calcistici. Che sono, non dobbiamo dimenticarlo, dei lavori dipendenti, dei lavoratori dipendenti a pieno titolo. Sì. Sono esattamente dei lavoratori, sì, che percepiscono un salario. Fa un po' specie, no, fa un po' specie, fa un po' specie perché il salario di qualcuno, come dire, è un po' abbondante, però... Fa sorridere la risposta del Ministero. Sentiamola. Che ricorda che, trattandosi di lavoratori dipendenti, anche se, attenzione, a reddito fisso, come segnalano poi anche i ricorrenti, certo, quindi il reddito fisso dà un'idea di un salario dell'assistenza. Il reddito fisso in qualche caso è da 1 milione di euro al mese, se parliamo di Ibrahimovic, però è pur sempre un reddito fisso. Devono essere, la giornata del lavoratore calciatore deve essere incasellata nel libro unico del lavoro esattamente come quella di un operaio, di un tornitore, di un impiegato. Quindi deve essere segnato se è presente agli allenamenti, e questo farà sorridere, metterà in imbarazzo qualcuno più di altri, se è in malattia e in sostanza se ha adempiuto alla sua prestazione professionale. Beh, insomma, no, sto scorrendo questa notizia, appunto, che avete pubblicato qualche giorno fa, e sto cercando degli appigli, no, per risvoltarla ulteriormente, ma in realtà non è semplicissimo uscire da questo quasi imbarazzo, direi. Sarà per caso, scusami Alessandro, non sarà che tutto nasce dal fatto che considerare lavoratore dipendente un calciatore è in realtà l'inizio dell'errore, o comunque l'inizio della discussione possibile. Sì, ma infatti la legge, c'è da chiarire anche che questa normativa, questo interpello va applicato a tutti i lavoratori di sport, a tutti gli sportivi professionisti, sì, ricompresi dalla legge 91 del 1981, che è la legge quadro di riferimento. In realtà è una legge un po' ibrida, perché individua sia la prestazione a titolo oneroso dell'atleta come contratto di lavoro subordinato, e il contratto già prevede la figura del lavoro autonomo dello sportivo, e però lo confina a una serie di ipotesi davvero molto marginali e molto ristrette. Anch'io sono convinto che, cioè, sia un equivoco da sanare questo, cioè è difficile considerare un lavoratore da 900.000 euro al mese ma anche da 100, anche da 100.000 euro al mese, anche da 50, anche da, cioè, al di là della norma, poi, cioè al di là della retribuzione, poi mi sembra proprio che questo sia un po' il vizio d'origine, no? Lavoratore dipendente, un calciatore, si fa fatica. Si fa fatica, sì. E quindi, però insomma, io trovo che questo interpello, questa decisione del Ministero faccia molto una democrazia di base. Anche, non c'è insomma. Dubbio. Chiudiamola così. Cosa deve fare quindi, a partire dal 16 febbraio, ci hai detto, una società di calcio? Deve fornire, cioè, questo libro unico del lavoro, o deve compilare? Lo deve compilare giorno per giorno, la carriera, il mese, la settimana lavorativa del calciatore presente, arrivato con ritardo. Quindi noi adesso... Ferie, malattia. E questo vale per tutti i professionisti, quindi... Sì, vale per tutti gli sportivi professionisti. Adesso noi siamo partiti dai calciatori perché l'interpello era rivolto ai calciatori di Serie A, ma vale anche per i lavoratori dipendenti del basket, della pallavolo, della pallamano, insomma. Quindi infortuni, le... Ferie, malattia, e assenze ingiustificate. E assenze ingiustificate, lì si aprirebbe un altro capitolo ancora. Alessandro, grazie. Grazie a voi. Grazie di questo contributo. Continua a scandagliare alla ricerca di chicche come queste. Sì, ci sono altri ascoltatori che vogliono intervenire oggi, però sapete che a questo punto del programma, anzi siamo già in lieve ritardo, il ripasso di storia è fondamentale. L'8 aprile, cosa sarà successo nella storia dello sport? Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 aprile 1979. Francesco Moser trionfa nella Parigi-Roubaix, tagliando il traguardo con 40 secondi di anticipo sul gruppo dei primi inseguitori. Per il ciclista trentino si tratta del secondo successo consecutivo nella regina delle classiche. L'anno successivo si imporrà nuovamente, eguagliando il primato di vittorie di fila fissato dal francese Octave Lapisse tra il 1909 e il 1911. Dopo Moser trascorreranno 15 anni prima che un altro italiano, l'attuale commissario tecnico della nazionale Franco Ballerini, si imponga nella Parigi-Roubaix. No, stavo segnalando ad Alessandro Garimberti, che resta qui per questi ultimi minuti a farmi compagnia, che c'è una domanda per lui, o meglio, c'è uno, dice: allora Adriano è in cassa integrazione attualmente oppure cosa rubricheranno, domanda Paolo da Prato, in questo libro unico del lavoro? Ma secondo me è una assenza ingiustificata, dovranno decurtargli lo stipendio in misura fissa, insomma, per quale che è la sua paga giornaliera. Certo, insomma. Ma questo non visto dal punto di vista della società Inter, visto dalla parte del libro unico del lavoro, visto, cioè sì. Di questa, no? È cristallizzare una situazione di inadempimento contrattuale, magari certo. Un tempo era più facile, specie in alcune società, chiudere gli occhi su queste cose, oggi c'è anche una giustificazione oggi diventa, formale. Certo, il Ministero del Lavoro, non stiamo scherzando. Alessandro Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. E io volevo un po' portare la mia testimonianza in quanto sono un ex calciatore, ho fatto delle giovanili di una squadra di Serie B, di allora in Serie B, adesso un po' decaduta. E trovo profondamente sbagliato che si innalzi l'età per i contratti, anzi secondo me dovrebbe addirittura essere abbassata, perché dalle società di serie C, dalla Serie C alla Serie A, i ragazzi primavera sono considerati degli veri e propri professionisti, anche se in realtà non percepiscono niente, molto spesso neanche i rimborsi di spese, in quanto allenamenti tutti i giorni, in particolare i ragazzi della primavera, e ritiro, perché fanno il ritiro, molte società anche richiedono, fanno il ritiro anche per gli allievi, e dopo si ritrovano tanti, magari più bravini vengono aggregati alla prima squadra, dopo questi molto spesso pochissimi riescono a sfondare anche a livello di Serie A, di Serie B, e quindi secondo me chiedere molti sacrifici a questi ragazzi che trascurano studi, perché insomma allenandosi tutti sì. I giorni, e poi magari molto spesso abbandonati in società dilettantistiche, serie D, serie di eccellenza, così, che poi si perdono, quindi portare a 18 anni lo trovo sì, questo è un altro aspetto, insomma un'altra faccia della stessa medaglia. Grazie Alessandro, molti mi chiedono il titolo di questo libro su Rocco, adesso non esagerate ragazzi, no? Non è che posso mettermi qua a farmi autopubblicità, siete in tanti che non so, provate a informarmi. No, rispondo a questo signore che dice, che si firma Paolo e che dice: mi può spiegare, lei che l'ha conosciuto, che cosa avesse di particolare Rocco per essere così mitizzato, scrive ancora a tanti anni di distanza. Ci ho messo un libro intero, per quando non è che me la posso cavare in 20 secondi, anche perché, no, state a sentire, e chiedo scusa Aldo da Siena, ci sentiremo domani. La FIGC ha stabilito che la nazionale giocherà un amichevole in Abruzzo con incasso devoluto interamente a opere di assistenza e ricostruzione, e si augura la FIGC che la data utile possa essere quella del prossimo impegno internazionale degli azzurri, cioè sabato 6 giugno. Sarebbe, credo di ricordare, un amichevole di preparazione alla tournée in Sudafrica, che sarà poi dal 14 al 28 di giugno. E un'altra notizia a questo proposito è che la Lega Calcio sta valutando la possibilità di rinviare il turno di campionato di Serie B di venerdì sera. Perché? Perché venerdì è stata proclamata giornata di lutto nazionale proprio per il terremoto in Abruzzo. Domani informazioni più precise. Grazie a tutti, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, grazie ancora ad Alessandro Galimberti per la sua partecipazione. Appuntamento a domani, Giornale Radio.